se ti incrocio per strada, se mi caschi negli occhi un po' mi cola il mascara. Ed è bello guardare la pioggia in silenzio e restare abbracciata con te. Che bella la tua voce che trema, sentire che in fondo ci basta una scusa. Ed è bello se metti la musica a palla nel traffico fino alle tre. E vorrei rivelarti un segreto, parlare di niente, sentirmi confusa. Scivolare un po' sulle tue labbra e sentire che a volte si accende qualcosa. E sdraiarci sul tetto, ballare sul letto, vedere le luci dell'alba. E capire davvero che fine faremo io e te. E quando scenderà la notte, forse esploderà. Morire per te, morire per te.